America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. I have a big day coming up next Tuesday with elections in Wisconsin, Maryland and the District of Columbia. I hope to get a good number of delegates from those three contests and be on my way to secure the nomination and taking on the president. Torniamo alla stagione delle primarie, qualche tempo che non parliamo di elezioni, in effetti c'è stata una pausa nella stagione delle primarie americane, però oggi si torna a votare in Wisconsin, in Maryland e nel District of Columbia, cioè a Washington, Washington DC, la capitale. Il favorito in questa tornata elettorale è Mitt Romney. Più si va avanti e più la nomination di Romney dovrebbe essere in qualche modo assicurata, anche perché è successo qualche cosa di non irrilevante negli ultimi giorni, negli ultimi 10 giorni, cioè Mitt Romney ha collezionato una serie di adesioni molto significative. Time for party to get behind Governor Romney. We're so convinced, and mainly because we've known Mitt for a long time, that he's the man to do this job. La prima l'avete sentita, George Bush Senior è stato vicepresidente con Reagan, poi presidente degli Stati Uniti per 4 anni, è il padre di George W. Bush, una figura che resta di una certa importanza nel panorama repubblicano. Ebbene, gli ha dato l'endorsement in un incontro che hanno avuto con la moglie, anche c'era anche Barbara Bush, e gli ha dato il suo totale appoggio, ha detto qui bisogna che il partito si riunisca. Who is the best person to be president? Who will make the best president? And who has the best chance of defeating Barack Obama? And in my opinion, Mitt Romney is clearly that person. Paul Ryan, avete sentito, uno dei più aggressivi, potenti, importanti deputati repubblicani alla Camera, è il numero 2 di John Boehner, è il capo della maggioranza alla Camera, mentre Boehner è il presidente della Camera, dunque Paul Ryan il capo della maggioranza, è un conservatore, ma è un conservatore doc. Ecco, Paul Ryan è un idolo dei repubblicani di destra, devo dire anche molto ammirato dai tipartisti, che restano comunque una piccola minoranza del partito. In Mitt Romney we have a candidate, an alternative that in addition to being successful as a governor running an important state in this country has also been successful in the private sector and offers a very clear alternative to the direction this president is going to take our country. So we've got to come together behind who I think has earned this nomination, and that's Mitt Romney. Marco Rubio, il senatore del Tea Party, uno dei più grandi successi di questo movimento. Marco Rubio è molto giovane, di origine cubana, un conservatore doc anche lui, ebbene aveva già dato l'idea che potesse appoggiare Mitt Romney. Tra l'altro, voglio sottolineare, ne abbiamo parlato in una trasmissione precedente, Rubio è appena uscito con un libro che racconta la storia della sua vita, si sta dando molto da fare al Senato, è materiale tipico per la vicepresidenza. Potrebbe esserci stato magari un qualche patto, non lo sappiamo, non lo sapremo, ma Marco Rubio, senatore repubblicano della Florida, diventa un'altra sottoscrizione chiave che spiazza di nuovo i vari Santorum e Gingrich. Dunque, dal mio punto di vista, ma questo ve l'ho già detto in passato, la strada, pur accidentata, pur difficile, sarà spianata per Romney per avere la nomination. In coda, Rick Santorum ha detto: se davvero riuscirà a raggiungere il numero sufficiente di delegati per avere la nomination, io mi ritirerò. C'è un elemento comune ai repubblicani e soprattutto a questi conservatori: sono contro le Nazioni Unite, e una delle posizioni su cui, devo dire, si trovano tutti più o meno d'accordo, ritengono che le Nazioni Unite siano un covo di sovversivi e che siano soprattutto contro gli Stati Uniti d'America. Ecco, secondo me le Nazioni Unite restano un punto di riferimento importante, e dunque voglio dedicare l'ultima parte della trasmissione a una cosa che è successa alle Nazioni Unite, alla partecipazione di un gruppo di studenti italiani, 1000 studenti italiani addirittura, che sono venuti al Palazzo di Vetro. Abbiamo con noi microfoni America 24 Salvatore Carruba, presidente dell'Accademia di Brera, ma soprattutto presidente di un'associazione che ha portato ben 1000 studenti italiani delle scuole superiori e dell'università alle Nazioni Unite a New York. Io devo dire, i miei figli sono andati a scuola qua in America, c'è questo programma Model UN che è una simulazione di quello che succede alle Nazioni Unite, si formano dei gruppi di studio, i ragazzi affrontano affrontano tutte le problematiche che sono legate alla problematica delle Nazioni Unite, ognuno prende un soggetto e fanno delle simulazioni. Questa cosa, Salvatore, tu in qualche modo la stai gestendo in Italia. Ecco, com'è stato venire alle Nazioni Unite con questi ragazzi italiani? 1000, voglio dire, non... Più di 1100, di cui 700 italiani e poi 400 stranieri, tra cui molti anche statunitensi. Beh, è straordinaria l'esperienza, perché al di là dell'emozione che abbiamo avuto tutti, vecchi e bambini e ragazzi, di parlare alle Nazioni Unite nella sala dell'Assemblea Generale, che si è aperta per la prima volta un'iniziativa di questo genere, i lavori successivi che poi un po' ho seguito, e quindi le vere e proprie simulazioni dei lavori del Consiglio Economico Sociale, dell'Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza, beh, questi lavori sono stati, dal punto di vista dell'emozione mia, veramente impressionanti, perché c'erano ragazzi che parlavano tutti perfettamente inglese, tutti perfettamente vestiti, perché dovevano vestirsi come dei diplomatici, e i quali rispettavano delle regole e entravano nel carattere della propria nazione. Quindi io temevo che magari, sai, essendo ragazzi, tutti si lasciassero prendere un po' da un'ondata pacifista, irenista, eccetera eccetera. Invece no, c'erano i rappresentanti dei vari paesi del mondo e avevano studiato le posizioni dei rispettivi paesi e portavano quelle posizioni, quindi entravano nel carattere della propria nazione, e questo naturalmente li ha abituati a fare i conti con le opinioni degli altri. E quindi questo modello è un modello che non a caso si chiama Change the World, perché dà l'impressione che si possa cambiare il mondo soprattutto abituandosi a rispettare le regole e a rispettare le dissenting opinion, a rispettare le posizioni contrarie, in vista poi del raggiungimento, non della pace mondiale naturalmente, però certamente di un modo più decente per convivere. Ma senti, ma da un punto di vista pratico, perché io poi qui vedo un sacco di gente di passaggio, insomma, gestire 1000 ragazzi a New York, ma cosa avete fatto? Li avete portati in pizzeria, alle mense? C'erano gruppi e sottogruppi? Come si gestisce? Cosa avete fatto? Sono divisi in due gruppi, gli universitari e le scuole medie superiori. E gli universitari sono abbastanza autonomi perché sono maggiorenni e quindi sottoscrivono un codice di condotta e poi naturalmente partecipano ai lavori. I ragazzi invece delle scuole medie sono molto più inquadrati, vengono molto spesso con i loro professori, che hanno, devo dire, dimostrato una sensibilità su questa vicenda molto importante. E ieri dicevo loro che sono rimasto colpito dal fatto che si parla male, tanto spesso male, delle scuole italiane. Beh, qui ci sono delle scuole eccezionali, pubbliche e private, cioè delle scuole che hanno investito su questa operazione, che hanno mandato dei ragazzi, che hanno mandato degli insegnanti e che hanno capito il valore di questa iniziativa. Quindi le scuole sono, certo, più inquadrate, nel senso che per esempio la mattina venivano divisi in gruppi e nelle giornate libere, che sono state un paio prima dell'inizio dei lavori, sono stati portati a vedere in gruppi scaglionati i musei più importanti della città e hanno avuto l'opportunità anche di conoscere New York, che già di per sé è una grande esperienza di vita. Ma dovendo fare una cena d'addio, dove li avete portati 500 ragazzi alle scuole superiori a mangiare? No, le cene d'addio sono state delle cene separate, perché non si poteva mangiare 1000 persone, mentre abbiamo avuto il momento culminante poi e finale con la consegna dei premi, perché ci sono dei premi che riguardano proprio il fatto di scegliere la migliore delegazione che ha partecipato ai lavori del Consiglio Generale, del Consiglio Economico e Sociale, del Consiglio di Sicurezza, e lì erano tutte, devo dire che vederli insieme 1120 ragazzi tutti insieme era un bel colpo d'occhio, poi con un entusiasmo, con una motivazione e con una partecipazione, per cui ho visto che quando si davano questi awards molti ragazzi si sono commossi proprio perché hanno partecipato con una tale intensità a questi lavori che hanno proprio dato il segno di un'esperienza incancellabile alla loro vita. Ci sarebbero 1000 altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, contro le tentazioni repubblicane di attaccare, magari distruggere, smantellare le Nazioni Unite, voglio dedicare la canzone del giorno proprio a questa iniziativa di cui vi ho parlato, che si è tenuta alle Nazioni Unite, a questi 1000 ragazzi che rappresentano in qualche modo il futuro del mondo. We are the world, Michael Jackson. We are the world.